Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica, sì, buona domenica a tutti voi appassionati di musica di Radio 24, in contatto come sempre con il Soundcheck, ovvero con The Groove Master Studio, per questo appuntamento del Soundcheck, il suono della musica di Radio 24. E buona domenica a una freschissima, abbronzatissima e sorridente Silvia Barba. Ciao a tutti, ciao Gegè. Mi sa che sei stata al mare questa mattina. Mi sa di sì. Mi sa che sei appena arrivata dal mare. Sì, giusto in guarda, tempo per la puntata. Intravedo sulle tue gambe lucide di abbronzatura anche qualche granello di sabbia. Ancora sì, beh, sai, quando si torna si fa la doccia al volo, crema e via. Eh sì, perché tu sei comunque un po' fricchettona, no? È un po' sì, beh, bello. Beh, sei andata con lo zainetto, ti immagino con lo zainetto, il pareo. Spiaggia libera. Spiaggia libera. Sì. Non così libera in questo periodo di domenica, no, però, da nessuna c'era parte. C'era molta gente. Infatti, me l'immagino. Bene, ti ho fatto i complimenti, mi sa che possiamo dare il via alla puntata. Vai, sono pronta. Allora, e non solo ti ho fatto i complimenti in apertura, ma oggi, forse non te lo aspetti neanche, apro proprio l'airplay del soundcheck di questa domenica con il progetto che ti vede protagonista appena sfornato a questa pubblicazione con Silvia Barba e il formidabile bassista elettrico Pippo Matino, che saluto e al quale faccio i complimenti per la sua intensa attività, ma anche per continuare a tener fede a un progetto che ormai quanti anni ha? È vero, sono 10 anni che collaboriamo, questo è il terzo album. Sì. Quindi 10 anni, ma 10 anni anche di concerti, perché vi vedo molto attivi in giro per l'Italia. Ne abbiamo fatti tanti, sì. Poi quando abitavo a Parigi facevamo anche dei concerti in Francia, a Parigi, nei dintorni, per cui l'attività è stata davvero molto intensa. Ultimamente chiaramente lavoriamo in duo stretto, proprio io e lui, quindi il Best Voice Project è proprio un progetto che ha visto la collaborazione di tanti amici musicisti, ma ultimamente ci piace suonare in duo. Ora, il nuovo progetto, il primo è stato realizzato dal vivo in un club che si chiamava The Place, giusto? Il secondo, il primo era in studio. Quindi questo è il terzo? Questo è il terzo, è il terzo album. Hai capito, eh? Allora mi manca proprio il primo, mi manca. Te lo farò avere, perché quello è stato pubblicato tanto tempo fa e devo dire neanche io ho più le copie. Insomma, naturalmente il progetto in qualche modo, non voglio dire che si rifà perché avete una visione diversa, però mi sa che l'originalità sta proprio nel fatto che non ci sono altri strumenti se non la voce e il basso elettrico, un po' come Petra Magoni e Ferruccio Spinetti sì, che fanno voce e contrabbasso. Esatto, qui è un po' diverso, nel senso che volevamo chiudere un po' un tributo a Lucio Dalla che da un po' portiamo nei concerti dal vivo, e abbiamo ottenuto questo risultato scegliendo le canzoni che facessero un po' che fossero la cifra di questo progetto in duo, basso e voce. Scegliere tra le canzoni di Lucio Dalla è stato molto difficile, però insieme con Pippo, che saluto e che ci segue sempre e che ringrazio per il suo apporto, per la sua anche originalità, perché non è stato semplicissimo rendere omaggio alle canzoni di Lucio Dalla rimanendo fedeli alla sua curiosità, al suo modo di interpretare la musica, le sensazioni, le emozioni, ma anche l'armonia, perché era un musicista straordinario. Ecco, e qui il tributo lo fate non solo a Lucio Dalla ma anche a un mio carissimo amico Rosalino Cellammare, sì, detto Ron, autore strepitoso, quante canzoni belle ha scritto con Lucio e da solo, tantissime. Allora, il brano è bellissimo, si intitola Cosa Sarà, Bass Voice Project, ovvero Pippo Matino e Silvia Barba al Soundcheck di Radio 24. Bass Voice Project, appena pubblicato questo album intitolato Dall'altra parte della luna, naturalmente un tributo a Lucio Dalla, alle sue canzoni più belle o comunque quelle adatte a questo tipo di progetto, basso e voce, la voce è quella della nostra Silvia Barba, il basso elettrico del formidabile Pippo Matino qui al Soundcheck di Radio 24. Sai che è un po' di brivido? quando dici al soundcheck di Radio 24 Silvia Barba. Abbiamo annunciato nomi grandissimi e io sono qui. Beh, fantastico. Allora, grazie. Un altro album molto bello, molto ben realizzato, restando sul versante italiano, qui invece è proprio lui il protagonista assoluto con le sue canzoni, ma rivisitate dall'abile Paolo Di Sabatino con il suo trio. Paolo Di Sabatino, musicista jazz molto versatile, con il quale ho anche collaborato, che incontra, anzi ha incontrato già da diversi anni, il bravissimo Fabio Concato, che signore, che musicista, che eccellente compositore, con il quale mi sono fatto una bellissima chiacchierata proprio in occasione della presentazione di questo album a Torino al Salone del Libro. È un uomo gentile e la sua gentilezza è trasportata nelle sue canzoni, nella sua musica e nel suo modo di presentarsi sul palco e rispettare il pubblico che lo ascolta e tantissimo i musicisti con cui suona. Io l'ho visto varie volte dal vivo e devo dire è sempre un piacere notare questo atteggiamento gentile nei confronti di tutti. Ecco, e a completare l'organico che ha realizzato questa produzione in studio, ovvero le canzoni, i brani rappresentativi di Fabio Concato, rivisitati per un organico tipicamente jazz, in trio Paolo Di Sabatino al pianoforte, suo fratello Glauco Di Sabatino alla batteria e il bravissimo Marco Siniscalco al basso elettrico e forse anche al contrabbasso in alcuni brani. Il brano che ho scelto per voi, con questo groove che è partito di batteria di Glauco Di Sabatino, si intitola Sexy Tango e te lo dedico. Grazie. Visto che stai messa così oggi. Vamos. Soundcheck. Il suono della musica. Il ritmo dello sciorigno, il Brasile che arriva prepotentemente in questa stagione, come sempre in tutte le radio in perversa, naturalmente in versioni molto diverse da quella che vi proponiamo noi, perché noi andiamo proprio lì, nella forma originale, lo sciorigno brasileiro in Escorregando non scioro, anche se poi la formazione è made in Italy. È vero, perché il pianista Giovanni Guaccero è un pianista romano che incontra questo duo che si chiama Choro de Rua, della flautista italiana Barbara Piperno e del brasiliano invece Marco Ruviaro, che suona la chitarra classica a sette corde e sette il mandolino. Corde. Sono bravissimi. Anzi, io devo dire la verità, li ho conosciuti e visti dal vivo in una performance bellissima in uno studio della Rai, perché ero ospite di Max De Tomassi, che naturalmente è un malato compulsivo di musica, musica brasiliana. E ho conosciuto questi ragazzi, ho conosciuto Giovanni Guaccero, che naturalmente mi ha dato il suo CD e oggi lo propongo anch'io, perché quando c'è la bella musica che ti passa fra le mani e ti piace, ecco qui che tu devi fare il tuo lavoro e proporre in libertà quello che senti. Fai bene, poi tu sei legato un po' al Brasile, diciamolo. Io sono legato al Brasile. Senti, perché mia figlia ha il suo bizzarro DNA, un po' al 50% brasileiro e al 50% afroamericana di Foggia. Anche lei. Anche lei, beh certo, è fatta così. Allora, visto che stiamo nel versante brasiliano, da Giovanni Guaccero con Choro de Rua, ai quali facciamo i nostri complimenti per questo bellissimo disco, come si intitola l'album, Silvia? Si chiama A Rodas dos Planetas Errantes. Non so se l'ho detto bene, però. L'hai detto bene, abbastanza bene per essere italiana. A Rodas dos Planetas Errantes. Mi sa che devi fare un bel periodo in Brasile, ti manca quello? Mi manca. Tu sai che mi hai dato una bella idea. Devi andare. Non adesso che è inverno. Troverai pane per i tuoi denti. Immagino. Musica a palla. Ce sai n'è che per bello. Tutti. Un posto fantastico. Bene. Guarda, tra l'altro il mio posto preferito è Salvador de Bahia, non Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mi piace, ma Salvador de Bahia ha qualche cosa, ha, come diciamo noi musicisti, lo spunto, c'ha lo spunto. Io ho uno zio che vive lì, quindi posso andare tranquillo. A Salvador de Bahia. Sul serio? Già. E una cugina, parenti, quindi ci andiamo, ho un insieme, appoggio. Andiamoci, dai, insieme. Dai. Allora, da Giovanni Guaccero e Choro de Rua passerei a un'altra esperienza discografica italiana che si è dedicata al versante latinoamericano. Vero. Devo dire che in questa produzione questi due signori, ovvero Conny Valentini con la sua voce e Daniele Di Bonaventura con il suo bandoneon, hanno mirato al suono tipico della musica argentina, ovvero il tango, anche se poi anche in Argentina c'è un mondo di suoni che da noi non arriva, se penso soltanto agli Acaseca Trio, che musica meravigliosa producono, ma con i Valentini e Daniele Di Bonaventura, esperti di tango, in questo nuovo album. Come si intitola l'album? Obsession. Obsession, si lasciano andare anche alla loro passione per il Brasile, e quindi per fare scopa con Giovanni Guaccioro e Xolo de Rua ho scelto un classico del repertorio bellissimo. Brasiliano, bellissimo, Samba en Preludio, con i Valentini e Daniele Di Bonaventura al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E questo è un altro album che mi è piaciuto tantissimo, si intitola No Difference, protagonista il pianoforte italiano di un bravissimo musicista, Stefano Lestini, non così presente nel circuito jazz come meriterebbe. Molti lo collegano direttamente con la sua testa brizzolata al Festival di Sanremo, perché in molte edizioni del Festival Stefano Lestini era proprio il titolare del pianoforte, era lui che ha accompagnato tutti i cantanti, musicista molto preparato, con studi ben fatti, una solida carriera alle spalle e soprattutto, e la cosa viene fuori da questa produzione, un gusto per la melodia che è quasi dimenticato ultimamente. Finalmente, che bello quando si ascoltano dei brani anche originali o che siano standard che si ripropongono e si comprende il significato e la pienezza della melodia. Io sono contentissima quando ascolto dei brani dove riesco a riconoscere la melodia, anche se originale, perché non è detto che uno debba per forza sempre riproporre degli standard. In questo caso il disco è molto bello e molto gradevole proprio per questo motivo. Ecco, ti viene da mettere delle parole su assolutamente, ma lo sai che è proprio la cosa che ho pensato e ho anche chiamato subito Stefano Lestini, ecco. Perché quando mi arriva un bel disco la prima cosa che faccio non è metterlo in onda, è chiamare il diretto l'autore interessato o il producer o comunque chi lo ha realizzato e fare i complimenti. Che bello. Da musicista, e ho fatto questa cosa ho chiamato Stefano, gli ho fatto i miei complimenti e hai detto, adesso ti scrivo un testo. Ci sono dei brani all'interno di questa produzione adatti, ecco, proprio perché le melodie sono cantabili e anche gli assoli che propone Stefano Lestini sono cantabili. Tra l'altro mi ha detto che l'album lo ha completamente trascritto, assoli compresi, proprio cose che fanno grandi professionisti, solo grandi professionisti. Complimenti a Stefano Lestini, che naturalmente salutiamo e probabilmente incontreremo nella prossima stagione, perché stiamo per chiudere i battenti, ecco. Ma niente, i saluti ce li faremo la prossima settimana, bene. Silvia, direi di chiudere con un'altra formazione giovanissima che si chiama T-Riot, ovvero Triot, T-Rio, Rio lo sapete, il famoso cantastorie africano. In questo caso è un trio tipicamente jazz, anche se con un piglio soul, funk e R&B. L'album si intitola A Different Truth e vi stiamo parlando di... Stiamo parlando di un trio formato da Camillo Pace all'acoustic bass, al drums, ovvero la batteria, Francesco Lomagistro, e al piano, alle tastiere, Pietro Vincenti. Un album prodotto da un grandissimo appassionato di musica jazz e non solo italiana, per un'etichetta giapponese, che è Satoshi Toyota. E devo dire... ci tengo a precisare che è stato missato e masterizzato da un altro musicista che noi conosciamo molto bene, che è Luca Bulgarelli. Sì, Luca Bulgarelli, contrabbassista favoloso, molti lo ricordano, a parte che ha suonato con tutti i più grandi musicisti del jazz italiano, molti internazionali, ma ormai da anni vive le avventure di Sergio Cammariere insieme a Fabrizio Bosso e al bravissimo Amedeo Ariano, insomma. E poi sì, è diventato un formidabile ingegnere del suono. Esatto. Missa benissimo e masterizza bene. La masterizzazione, tra l'altro, masterizzare un disco è veramente un'operazione molto molto delicata, diciamo che il make up finale, quello che rende il suono di un'intera produzione omogeneo, esatto, ascoltabile allo stesso modo e soprattutto piacevole. Allora, siamo arrivati ai saluti, vi salutiamo con T-Riot, il brano, uno standard di jazz, Will Whip For Me in versione funky. Yeah. Grazie a Silvia Barba per la partecipazione, ti faccio ancora i complimenti per l'album con Bass Voice Project insieme a Pippo Mattino, Dall'altra parte della luna, il titolo tributo a Lucio Dalla. Grazie, lo porterò con me durante l'estate. Sai che bello, dai, in macchina, quello si ascolta bene. Alla grande. A tutti voi buona serata, buona domenica da Gigi Telesforo e Silvia Barba.